mangioso, poi glielo tolgono. E Gianni ha detto di sì, io non la conosco quell'operazione. Così è già, glielo sfidano, no? Non lo so, l'idea gliel'avevano sfidato con la pizza, non l'avevano sfidato. Però non lo so se quello lì bisogna sfidarlo, se bisogna... Non penso, se è esterno, se è esterno lo so. Sì, già che lo tocco io, le medicazioni le sto facendo io, perché si sporca la garra, capito, che è brutto, puoi andare, quindi ho fatto le garre, tutto il necessario, e lo tocco, lo vedo anche, esce praticamente dal pollice, no? Esce una punta di ferro, ed è in mezzo all'osso dove ci sono i punti. Sì, ma quanto è stato già, quando è stato fatto, quanto giorno? Il 4 di dicembre l'hanno operata. E quindi, e poi Putin non l'hanno ancora più? No, no, è andata il 10 mi sembra, no, il 16 è andata, il 16 l'ha accompagnata, adesso deve andare il 4 gennaio, però si deve tornare il 4 gennaio. K.K. Diciamo che siamo qui, dobbiamo aspettare di ritrovare tutti, vuol dire che non si ripaglia ancora la pericola. No, ora è un bacetto, vabbè che c'è la tintura di Iulia sopra, però era abbastanza bello il piede, capito? Come era prima, era tutto riformato, era messo male, mi già, non riusciva a mettere manco le scarpe, più per quello non riusciva più a guidare, lo faceva male, capito, guidando, era un po' messo male, l'ha trascurato molto. C'aveva già due dita accavallate uno sopra l'altro, capito? Quindi adesso l'hanno messo tutto ben in linea, tutto ben sistemato, ed è per quello che magari stanno aspettando ancora. Rimettiamo il Betadine, che cosa? Betadine, che c'è cosa di pomeni. Non è per quello che ho attaccato il Betadine, in ospedale. O Roma o Betadine. Ah, mi parla di una fragosa, vabbè, tu hai fatto 118, quindi io ho fatto 113. Stati pigliato il 113. E allora, ho fatto, mi sono bugiato la macchina il 113. Adesso ve ne racconto uno. Allora, mio socio era poliziotto, quindi andavamo sempre lì al lido della polizia, no? C'era il pulmino che ti portava e poi ti riportava a casa, solo che il pulmino non è partito perché c'ero solo io e Liliana che dovevamo tornare a casa. E ha detto dai, vi do un passaggio in pattuglia. E Liliana è andata con un altro poliziotto in macchina e io sono dovuto andare con la pattuglia, che se lo mi vede un amico mio, e gli ho fatto con le braccia e fregato solo. Che se mi danno un telefono a subito a Liliana di chi mi viene avvistato. E io non sapevo ancora il tuo socio. Vabbè, vai, adesso muovo qui e vado a portare il cane e poi devo tornare. Vai, dopo di lì. Guarda un attimo, già ci sentiamo dopo, vai, Tony, riprendi tu, ci aggiorniamo dopo se ci siete. Bagnato è a Natale. Dopo cena già entro, vai. Niente, io quando ho avuto un ragazzo di 7 morto, tibio e perone, è trotturato, mi hanno messo la trazione. Ma in bocca un vino lo trapano, è nata Lady Torre, con questa punta. Buone tallora mi aveva entrato, e poi mi hanno messo la trazione, i pisi. Poi mi hanno ingessato col chiodo, sempre, dopo un mese, mi hanno tolto un gesso, hanno tagliato la tenaglia da una parte, e l'altro me l'ho sfidato. E vabbè, non mi ha fatto male, la verità. Tutto qua. E vabbè, due cose. Ehi, cosa vuoi fare? Riprendi già. Proprio Moco Rix e Claudio, adesso ci sentiamo dopo. Io l'ho visto quando l'hanno portato mia moglie, il chiodo, l'ho visto, l'ho preso la pinta, l'hanno girato prima una parte, poi dall'altra e poi l'hanno tirato. È uscito appena di sangue, le mani di cazzo, mi ha fatto il gioco. Poi ha detto, chi è che vuole uno spirito? Non fa di un po' di più a Darino. Perfetto, vabbè, già io mi assento perché volevo guardare anche il telegiornale, qualche novità vorrei saperla. Se accendi dopo ci sentiamo, ok? Va bene, cioè, tu dici ci sentiamo, no, dopo non fa, c'è gente a caldo, KK, ci sentiamo, dai, buona giornata. Ok, dopo divertimento allora, ciao già, alle prossime. Ciao a tutti, anche gli eventuali ascoltatori. Ciao Tony, ci risentiamo, ciao. Ok. sì, ciao ciao a tu. A tu. Dica tutto. Mangiato anche. Mi già mangiato, oggi abbiamo fatto qui le tifla testa con la marasurfie, quelle di merluzzo, abbiamo mangiato roba così. Io oggi ho mangiato pesce, ho mangiato salmone. Ed è buono. Io non l'ho preso congelato, l'ho preso fresco. Cappa cappa, e vabbè, comunque ci vuole il pesce dopo tutta la carne che avevo mangiato, perlomeno penso, anche io. Mi sono capuzzato in questi giorni, sono cercato di mangiare qualcosa in meno, ma ci piace troppo mangiare, fatti. A Garudì, e a chi no, non mi piace a me mangiare. Io oggi a pranzo ho fatto i tortellini alla panna, e sono avanzati e me li ho mangiati anche stasera quel pochettino che è avanzato. È roba è pagata. No, oggi qui ma non lo fai, eravamo troppo una pesa, quindi abbiamo in giù, ci potevamo di rimane di pochino. Fatto il forno, lì si guidava, il panettone, le spumante, e la faccia a caffè, eccetera, eccetera. Sempre queste feste ci fanno, ci ho fatto. Però poi stai male, io ho 74-25, non ho giù brutto, io non avevo preso una tale droga, ma non riuscivo a togliere il malocchio di questa stella. Abbiamo mangiato i gambari, ma abbiamo mangiato più leggeri, ma voi, una gottura da voi. Anche da voi? No, lei non può bere. No, per pagare. Vabbè, comunque, quando è festa, però da poi bisogna fare Ramadan. Nei giorni successivi bisogna fare Ramadan, ma proprio pure il Capodanno, lo fatichisco. Io per Capodanno ce l'ho niente, la Natale c'è quel porcetto, a Capodanno ce l'ho niente. Gamberoni, insomma, ho dovuto anche regalare a miei figli perché li avevo fatto in eccesso. Ne ho fatto due scatole grandi e me ne sono avanzato. Cappa, noi invece abbiamo lo zampone a Capodanno. Ah, boh, già vi sono due ampulli. No, a me lo zampone con le lenticchie non mi piace. Un po' di me, le lenticchie sì, ma lo zampone è grasso. Non riesco a mangiare, mi nausea. No, a me già mi piace, a me piace molto, la verità. Anche il cotechino, l'altro, come si chiama l'altro? Mi piace molto. Ma cosa hai detto già che non ho sentito bene? Ho detto che si fa con le lenticchie di solito, perché dicono che porta soldi le lenticchie. E magari già ne abbia regato. Ma la lenticchia la mangio, ma è un po' pesante. Cioè, perché lo dico un po' più grasso, un po' di gusto. Adesso con la carta, no? E c'è di pollice. E poi si fa, fettine e si fa con le lenticchie. Sì, noi lo facciamo così. E mangiamo quello, mangiamo. Quindi il Capodanno sicuramente fa questa forte. E vabbè. Io lo so il giorno dopo Natale che ho fatto il 25, ho fatto lì, non abbiamo digerito quanto la roba è giorno qui. Fai frutta, avete mangiato? Okay. No, io ho mangiato a casa i gamberoni, ha già beccio da voi chi do vino tipo spumantino, Ariuccia, lo conosci? Sì, l'Aragosta. Io invece ho preso il moscato di tempio che aveva aperto quello. Ho aperto quello che l'ho bevuto io, ho bevuto, poi a seguito la bottiglia su alte. Tutta la su. Allora? Mi sei gripato tu. No, quel moscato mi piace e ve lo ricordo. È buono, è molto buono. Ho preso anche artigancia, però non lo apro. Apro quello, è buono quello dolce. A me se quello mi piace. Chi se non agganza, no? È meglio dolce. piatti così, lo mantesce, ma là. È pure buono di sapore, non mi chiama. Ho già vinto. E sono che io, cioè, che sto toccando queste cose. Trinco un bel me. Però ti dico la verità, non mi è imbriagato per il dato. Sta un po' cura volte, sì, ma non mi è imbriagato un po' di tanto. Già me lo ricordo, ma era in Brencio, era. Mi canno, vediamo un po'. Io non sparo più la pistola, che ti sparate a Natale, te se sei stato tremando. Ho sparato due colpi, ma no, non fa più. Allora, ma che imparata a bravo. E non è così fesso, no. Già, ti assicuro, Rugane. Guarda, lui non le ha mai tenuti tutti, mai. Quest'anno invece si è spaventato. Per forse perché è vicino. Hanno rivate in unta, hanno rivate. Sicuro è buono, taruretto. No, vi c'era tutto tremorente, lasci guardi, non c'era tremorente. Non si dice in fine. Quattro. Si spaventano dei cani, no, io non pensavo perché non si era mai spaventato, io sparavo di pigliare, non si è mai spaventato, perché si è spaventato, non lo so perché. Vuol dire che l'ha sentito, no, ma cosa, si guano i miei gatti che c'erano a casa, si guavano sotto a ruretto, e boh, con gli occhi a palla, poi dopo già, come si dice, già si rimettevano a fuoco. Solo che io ero talmente sbronzo che poi li ridevo in faccia. Ma scusa, ma quello non era ancora vivo? No, sono tutti morti. Ce ne avevi uno nero, te lo dico? Sì, sì. E quanto ha vissuto? Quanto era vissuto? 5-6 anni. No, sai quanto ce l'aveva il mio quando è morto? 19 anni. Sì. Uia. Sono tutti morti uno dopo l'altro. Ma non è che ne faccia fare libri di cacchi tu? No. Io no, assolutamente. Né io né Sara, ma manco per idea. Chiappa, aspetta un attimo, ti mando un messaggio. Ciao Cucca. Sto parlando a casa, riprendo a casa se ci siete. Non lo so, non lo so. Io non riesco, come devo mangiare, eccetera. Sofia, già partita già. È partita stamattina e mi ha detto 2 ore di ritardo che ha avuto un guasto l'aereo. Hanno dovuto aspettare 2 ore. Andiamo, solo un attimo. Io non mi ero bugiato dopo che avevano acquistato il guasto. Ce l'hai in aria il guasto? Ehi, a Gioboccio, lo friscio a Gioboccio. Io sono comparato, io sono un attimino. A Gioboccio lo friscio. Sì, ma messaggio non me l'hai mandato. Sì, te l'ho mandato già. Capisci a me? Già te l'ho mandato il messaggio. Ehi. Antua. Via. Capito? Sì. Finito il discorso. Io. C'è freddo stanotte, è vero? Ah, io sono uscito poco fa con il cane e freddo non ce n'era molto. Sono uscito più poco, no? È un massiccio, così mi ha fatto il cane dopo. Però freddo non ce n'era molto. Mi ha fatto il freddo. Oh, qua se... come si dice? Se scendi giù c'è più freddo, se stai qua su no. Ho poi ieri sera quando hanno staccato il riscaldamento ha acceso un po' la stessa elettrica, perché un po' di tutti non c'era, anche perché ha un po' di finestra, capito? Per cambiare l'aria ogni tanto. E a una certa ora li spengono e poi ce l'ha fredda la casa. Capo, giù c'è freddo, però qua c'è sempre più caldo. Sotto al tetto. Sì. Ma è fatto, cioè praticamente la struttura è vecchia, era quella di fuori è vecchia, la struttura di dentro è nuova, perché io ho visto come sono i muri, ho visto, ed è fatta in un modo particolare. E l'ha restaurata dentro? L'ha restaurata dentro. Sì, voleva fatta anche fuori magari. E fuori è così, però dentro è nuova. E vabbè. Sì, vediamo un po' come, vediamo un po' come più là se riusciamo a ciapparne una migliore. Ah, per il momento va bene così. È bellina, a me mi piace, è bellina come è fatta, piccolina ma bellina. Ah, va bene un giorno. E già vengo adesso, aspettiamo. E già offriamo il caffè, dai. Caffè, non c'è problema. Dai, Carusa Tyson, Monello. Già lo so. E come si comporta con i tuoi figli? Bene? Sì, gioca come un matto, gioca. Sì, si buttano nel letto, giocano nel letto. E no, con i figli tranquilli. Con Manuela, con Marco, con tutti e due. No, no. È tranquillissimo. Come guiderà Monello? No, no, non ce l'ha. Ce l'ha solo con le persone che non conosci, quando poi prende confidenza ti fa di ripetere, ti fa di ripetere. E ce l'ha giubito io. E vabbè, non ti ha fatto nulla, ti ha solo minacciato, non è che ti ha tutto cagnaccio che non è altro. Ohia, invece hai visto, la ragazza che è subito, ti ha fatto confidenza, te ne faccio. Sì, ma ci è venuto anche sopra. Poi pure a fare un dopo. A te guarda bravo. Monello. Perché bisogna lasciare gli spazi agli animali, non si può bisogna assiglarli, così. È così. Poi loro si sono fatti così, non danno molta confidenza lì. È malandrino, è un cagnaccio. Ma va a provare a catturare un cane, sì, c'è lì. A vedere se funziona. Ma Rasulti l'ha pigliato. Dove? E va sì. A Bronospera l'ha pigliata. No, sono qui, magari. Non ci capiva un cacchio. Oh, era tutto canto strano, era. Ma non capisco perché fa così. Si mischia l'eco con la modulazione, tutto un casino, non ci capisce nulla. Guarda adesso, vai. Adesso va bene. E adesso state lì e poi andiamo qui tutto Rafa. Adesso va bene. La potenza al massimo c'hai? Sì, la massima. Poi forse anche abbassarla, guarda, faccio così e la abbassa. No, già, ora invece, sia che vada in protezione, con questa cosa. Tieni la potenza bassa, una minima, quanti watt dà? 15, la massima. Tienila 6-7 watt. E tienila così per un po' e vediamo se lo fa l'effetto. Perché pensi che sia anche una cosa di protezione, boh? No, non l'ho mai fatto, Flacco. Sì, vabbè, le vecchiaie che avevano abbattuti mi già. Io adesso mi alle 8 e mezza l'ho portato a te, cioè perché ero portato verso le 6. No, e io l'ho portato anche alle 10. No, io ho portato stamattina alle 9. preciso oggi, perché io sono cazzo, ma sa che mangia, che cosa? Di strano, ho dato la coppella del maiale e gli ha fatto male. Eppure già c'è a mente gli animali, già ti lo prometto. Non è male coppella del maiale, non è la coppella del maiale. Non è da mangiare, non lo so, non è da mangiare che a me è maiale già. Soprattutto porcetto, assolutamente. Metti la metà la potenza, non la metto tutta a me. troppo potente e non ce la fa il modulatore. Bravo, bravo. Anche qua dicevo, può essere una stronzata, nel senso che va in protezione. Quindi tu evita di metterlo a manetta. Lo metti così, intanto il segnale non cambia, sempre non fa più 20 sigle. Così come stai usando adesso. E bolla la radio, il segnale c'è. Cosa? Beh, lo metti troppo alto, inizia a surriscaldare, capito? E ti manda in protezione il modulatore. Secondo me va bene anche così. Provala così già. Se non lo fai quello lì. Proviamo a vedere, dai, come fare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Devi trattare che sei radio a manetta, non deve essere un po' cubato, a metà devi usarla. No, a metà già, a metà, lasciala a metà, è moduli normale, tu quando ti serve un amplificatore non fai proprio attaccarlo. Però secondo me è bella così la radio. Sì, io tanto non da molto di meno, da 5 parti così invece che 9, da. E allora, io vado a morire con la baracchina, mi sono Antonio, adesso sì, ma certo, stiamo volando con la 140 perché da tanto che non lo uso, sono così per quei baracchini, bruvi. Che paga, vabbè, da quindi l'ho messo lui. Ehi, mi dà la te. Ma l'ho preso perché oramai vado in modo a questo già, non dà problemi, vanno bene, non va la modulazione, non cambia niente, la 440 è nulla. A gratis, come fa lui, e poi altre tre volte ho dovuto pagare Bianconi, capito? Ma basta il suo speso su quella radio, alla fine basta, l'ho venduta già. L'ho venduta, non la prendo più 440, l'ho preso il suo bellissimo 140, nuovo nuovo, funziona benissimo, alla grande, e non hai problemi con il 440, tutto qua. Meglio così, già va bene. Un nuovo nuovo già, era di un radiomattore, non era, non l'ho mai usato in AM, capito? L'ho fatto parlare Roberto e l'ho preso subito al volo, non l'ho pagato neanche molto, ho pagato 300 euro e va bene così, ed è l'ultimo veramente, nuovo nuovo, non è un graffio, frontalino senza essere mangiato, bello, non l'avevo manco decimale, gliel'ho messo io, che c'è cooperazione tenendo premuto ancora. Ti vai due decimali e butti. E ho proprio, i watt sono suoi originali, 80 watt e non va più ducati, lo lascio stare così perché sono positivi e appena appena di LC volato, ma giusto un pelino pelino, proprio per far arrivare almeno il, la freccetta della LC a metà, perché non si muoveva neanche, però una canonata, guarda. E io sono stai tranquillo che se lo lasci spento anche un mese, vai e lo riaccendi, 4.40 non lo accendi più. Lo so. E vabbè, sono usurati i componenti, c'è poco da fare, siamo andati a creare sugli anni, non si può pretendere molto, sono state, c'è quella che è stata usata di meno, quella che è stata usata di più, e quella che è stata usata di più ce l'ha più usurati, i componenti magari passa. No, già guarda, la componentistica sono sempre quelli, sempre quelli. Perché VCO al 140, VCO al 440. Il 440 è nato proprio male, ha difettato da sempre. È un difetto del VCO, capito? È difettoso sul VCO 440, quindi ti dura quello che ti dura, 2 anni, 3 anni, e poi comincia a fare difetti e via. È il primo colpo, 200 euro. Poi quanto ti dura? Adesso guarda tu, quella che aveva, che ha volato, che ha comprato Giulio, quella era la mia, l'ha comprata da Franco. Quando l'ho venduta a Franco, 2 anni prima io l'avevo fatto revisionare da Bianconi, capito? Tanto durato 2 anni, al terzo anno ha difettato a Giulio, e Giulio l'ha fatta riparare. Adesso nuovamente dice che ha sentito un campanello di allarme, è proprio difettosa, non c'è niente da fare, guarda, dico io ho un'esperienza, ne ho avuto 9 di 440, 9, tutte 9 hanno difettato, sempre al VCO, perché per il resto non fa un difetto. Magari è quello, c'è il difetto lì, è stato costruito male, oppure c'è questo segnale di scadenza, lo sai che le apparecchiature hanno sì, tutto qua, tutto l'ho portato di te, per cui se ho fatto apposta posso lasciarsi. Mangiamo, scatto la 4.30, io 4.30 ce l'ho 10 anni, miei Gianni, 10 anni, 10 anni, e ho avuto una riparazione, che è quella del display che ha cambiato sempre Fabrizio, ok, chiaramente me l'ha detto, guarda che questa radio, insomma, è abbastanza in ordine, ma i componenti, cioè, sono, e ancora non si è fermata, ce l'ho 10 anni, capito, mai avuto riparazione di VCO, riparazione di finale, riparazione, niente, mi si è bruciato il display, gli ultimi due decimali del display, e mi ha messo il display nuovo Fabrizio, una lineatina, a posto, 10 anni, ecco, in 10 anni ho di 4,40, ma di Giambardo nuovi, nuovi. E sta pagato. Ma quello io che sono andato con la frutta a Torino giù, e poi devo fare anche la scena. E quindi vi saluto così, dai. Vi auguro una buona serata, non rientro perché ho gente. Ciao, ciao. Ciao, già, ciao, ti faccio salutare l'Antonio, vai, anch'io un po' vado a cenare, che poi non a mezzo, c'ho un impegno, se no faccio tardi. Ok, ci sentiamo Antonio, ci sentiamo magari dopo. Ehi, a capo, dai, se non mi trovo prima, sì, ok, dai, ciao Gianni, ciao a te Claudio, ce la risentiamo. Ciao, ciao Antonio, lavori perché domani? Papà. Cosa Antonio? Sì, sì, lavoro domani. E va bene, se capita ma ci facciamo due passaggi e poi si chiude, non problema, ok, ciao, a dopo. Yeah, ciao, ciao, cra. Ci risentiamo, va, a dopo. Oh, yeah. Ah, mango lo squash e via. Cosa se fruscendi? E beh, tu, pescare lo so adesso. No, perché devi innascare? C'è solo. Aspetta, controllo una moneta, da 2 euro, aspetta. È nuova, però, boh, suona. Scappa. No, non lo so. No, innascare non inneschi, sei perfetto. No, c'è l'altro acceso. Ah, beh, se attendi l'altro un po' di aburotto rubate, ma... Non lo pongo in marcia, sì. Già. O falla andare che da un bel fermo visto. Domani al lavoro rientro. Domani sì. E ci apriamo lo squarci d'ora. Ci appunto, lì gufi via giù, che ne dico gufi, gufi via più a Lecce. Attendi che sono modificato. Oh sì sì, oh la roccia, la va. A pensare che era un mio visto, che era proprio quello che c'avevo io. Non ci stanno problemi, dai, la cosa è bella, pomorino, pomorino, capa. Mi sa che me lo riprendo. Ma sto uscendo, sì. Che stai uscendo? Perché non devi uscire? Attenzione, ma prima, attenzione, ma prima. Attenzione, binario 10, dai, la cosa è bella, ma quella cosa non stanno bene, dai, la bella. Positivo la parola, la bella. Attenzione, my friend, si ascolti questa piccola frazioncina, cambio. Positivo, frate, non ci sono problemi, ti ascolto bene, dai, la cosa è bella, papà. Ma questo microfono non mi piace, bo. Ciambadio, ciambadio. No, sto scendo bene, no? Sì. Cannonata, sì. Dalla a me a vedere se riesce a farla sci, se me lo ricordo ancora. Ma chi sei che non ti ho riconosciuto al volo? Positivo il caparroio, ecco, ecco, ecco, ecco. Faccio fare qualche falso contatto. Oh, oh. cambio. Schino muscolo, mi ascolti, cambio. Sì. Com'è questo, Luca? Eccola. Ah, ne buco tutto, non mi piace. Por qua, allora, l'ecco. Eia. L'ecco, l'ecco. Lascia vedere. Oh, oh, oh, oh. Ciao, ciò che faccio contatto. Aspetta un attimo. Eia, stai gracchiando appena appena. Adesso uso il tetto. Tieni la portante. Hai capito il PL? Prova a tenere la portante inserita. Va bene. Sì, ma c'è qualcosa che non va. Cos'è il 2? Sì, Typhoon 2. Meglio. E la pompa ya. E su cambio capa capa. Bene, vabbè, va, c'è divertita ora. E qua c'è il bailare, tra l'altro. Ciao Tino. Ciao Tino. Ci sentiamo. Meglio, ciao. Sono ancora lì, ciao. Soltanto che attacco la cosettina dietro, quella la curva là, la TTL. E cosa va? Vuole prendere la sabbia, aspetta. Sì, prova a vedere. Va bene, Anto, va bene. Sì, prova. Forse va bene, attenzione Antonio Mugolino, se tu ascolti Luca qua, Ciappa, sì, no, va benissimo. Roba di splatter, quindi con ghiso. E va, si è spostato il canale. No, ho provato... Cazzo, ti sento nell'altro canale vicino, minchia, vabbè, stavamo più su, non più. Ah, lì sono i bigliacolpi. Non so che sono i bigliacolpi. Chi se lo pongo no, che attaccato il 247 mi manda a fanculo in dete. Cappa. Non sto più usando, cioè non lo sto usando, però sa. È bello già però. Assai ne voi. Beh, almeno a recuperarmi i soldi di 200 euro. Cappa. Non i mazzi, non me l'aveva dura da pigliare, quello lì mi piaceva, è solo che non sento più nessuno, non sono più di ex, cosa ho pigliato a fare la pompina? È brutto per ragione. Ma tu sentito ne hai in quest'ultimo periodo? No, negativo. Ci sono pizzati con chi t'amarato sui cibitoc. Sì, Pomponio. Ma Pomponio? E poi mi è fissato la Cibitalk. Vabbè, qualche volta si può andare. No, a me proprio nei cioè, normale è un po' così. Però sui gruppi proprio fate, ma andiamo in Noramara, andiamo, per carità. Quanto lo chiami tu, Pompetta? No, io sono entrato, ma no. Non mi piace. Sì, senti continentale. È meglio visto, va. Sta più comodo anche. Cappa. No, già anda buru visto. Buon brutto, che? Microfono, Vabbè, anche la radio. E la radio che pompa. Sì, ma lui, cioè io sono andato, so, di buttone, so, già. Cioè, attacca brighe. Niente che non si fa dei gatti suoi, ma... Sabo i blechilis, marazzotti... Ma non gli dici io, tu hai che ci bittot. Sai cosa, che moderatore lì... aspetta un attimino, sta qua... Fa abuso di potere. Ah, cosa, già... Tutta gente di droga che si crede... Cioè, si crede un paese, si crede... Boh, non ne pare in un ciappo. Cioè, invece di stare tranquillo... tranquilli, cioè si bisticciano, se ne gabano i dolci. Io ho sentito queste scene qua. Non è che io c'entravo, perché chiedo sempre, però ho pensato che ma che merda sono, ma vai. Cioè si credono di essere migliori, credono di essere, cioè delle persone, ma passare dai, buoni biliardi e cuttare un muro. Ti giuro che certi personaggi che sono lì, se è andato in ogni sassa, è andato che se l'avesse avuto la Roma come, il gasaggio di Amatese. Ma me ne sono offeso, sardignolo, va. Sì, ma già ho capito com'è la tifora lì. Sì, ma puttana, se non vuoi. No, ma io ho capito che la tifora come te, cioè, ti bastone di proprio bassi fondi, cioè. Pochi se ne salvano, mi. Voi c'è ne pigliano di barocuro, non c'è, ma cosa cazzo vuoi? Ma lo sai perché? Perché quello lì è stato sbagliato, secondo me. Perché loro sono là e tu sei qua, e quindi non puoi andare a rompere il culo. Perché c'è la Sardinò che dice così gente bisogna nulla via con tu bocce, perché fanno cominciare quando quella gente che c'è lì. Sì, qualcuno sì, se ne è educato, se ne è, per carità, non facciamo tutta un'erba un faccio. Ma mi sono stessi che vuole i biliardi e cuttare un muro. Sì, non so quanto, se vuoi che purtroppo. Vai, niente binguina, gara, faccia di culo, per carità, inghinosi, gara. E c'è qua entri, cioè, no, cioè, bene o male ci si riesce a parlare, ci si riesce a farci voler bene da tutti. In chi mi date a solo passi di un tindille, gara. Sono moderatori e loro alla fine ti possono buttare anche fuori. Oh, no, entra chi su un linguicuro da voi, Rugoso, come si chiama? Amministratore, linguicuro di uno e dell'altro, cioè peggio di ma va, fanculo, va. Vai, vai. E la Sardinò che casa l'aveva con tu cazzo pugna a capo, l'aveva bucato, per carità. E la sto guardando. Che cose? Qui sono 72 minuti. 50 oggi, 50 domani, 1 euro, 70 euro. Se andava, magari chi si non andava a rubare, se li pone a parte. O magari non fumi, perché se li pone a parte. Sì, che la lì non fumo, sono già 12 anni che ho smesso. E poi ho anche minutaia, oh, dai, da 20, da 10, da 5. Diciamo che mi tutti i spiriti avevano un buon 80 di euro. No, no. E poi di butti, se la giovano qua, dormi di tanto, ma un bel se la giovano qua, un bel. Proprio buttati, mi, ne posso solo la parola. Vabbè. Ma me non l'avrei fatto, purtroppo. L'ho trovato un attimo così e niente. Ma comunque, non li ho buttati, cioè, sono buttati nei giochi, ecco. Sono nei giochi, dicevo, vabbè, ma sono la palla in più. Ma l'hanno cercato le macchinette, l'hanno cercato. Proprio a quelle. No, non si dice i buoni più, no. Da una parte non andava, da una parte meglio che sia andata così, va. A manco un poco di niente si gioca con la macchietta, la pipì. Beh, un casino, purtroppo sono mangiati soldi. Sono mangiati soldi. Ti ho vinto, ho vinto, domani, spicci di sebuccio. Ricordi? Va. Che vuoi fare, purtroppo, e gai su conto. L'ha fatto di là. Vabbè, io ne ho vinto, ma ne ho perso anche. Come te tutti i canti, come tutti. Pure giorno ha più vinto in passato, tanti soldi pure, ne ho anche perso, no, non nego, ma va se la bopiglia in culo, non mi interessa, i soldi mi servono per mangiare a casa. Lo so, i soldi sono per tutto, per pagare, mangiare, va tutto. E niente, vabbè, pazienza, dai, è andata così. E capo, ah va, basta. No, tu ci hai mai giocato alle macchinette, Antonio? Sì, sì. A voglia. E ne hai perso i soldi? Sì, ma non è che stata esageratamente, la verità, E ti ho giocato un buco 100 euro. Sì, io già me la giù vinti una volta, pure di più. Vabbè, diciamo che è capitato molte volte senza soldi, con 5 euro mettevi in tasca 300, 350 euro. Una volta lo stesso, ce l'ho messo 300 e ne ho levato 900. E così già va bene. Hai sempre messo. Tanto, le mi i dati e poi la diapa se ti poni chi si è vinto. E poi quindi dai sicuro. Ma che dove gioco? E ti compare di qualche cosa che ti piace. Ah, io già ho finito. Passo mi compro la bici quella pieghevole, quella 25. Vedi che la pigli? No, pedalata normale, a marce. No, le pigli elettrica, no. Quei cadrupati. Ma non è la matta si goccia. Tanto ti scuffi subito. E di cosa? Chi sa così a pedale, se ne farà la mappa se ne zero monte. Invece se tu te la prendi elettrica è una spesa più meglio, perché cioè, ti tira la borsa a casa e cioè, per andare dai chivi da Marina a Romonte. Cioè, per te era come ti era convenuto, ti era. No, non la sto prendendo per andare a casa o per scendere, no. La sto prendendo perché magari quando usciamo la sera, quando è bel tempo, ci andiamo lì a Sant'Orso, da lì, no? La passeggiata in agosio, oppure ce la carichiamo in cofano, ci scendiamo ad Alghero e ci passeggiamo in bicicletta. Pure ti ne farà Pratamona, la matte se cosa. No, vabbè, pure ad Alghero, parcheggiamo la macchina e ci passeggiamo in bicicletta. Vabbè, pure quello che è bello, vicino al mare, lì. Infatti, no, vabbè, è lungomare, anche. Sì, e si fa la passeggiatina. Un giorno a piedi, un giorno in bicicletta. A me piace tanto, però più che Alghero mi piace preferisco starmi a Pratamona, perché c'è meno confusione. Ah, vabbè, l'aglio c'è bello. Sì. No, io già ci sono stato, ma non mi piace molto. Cosa, Alghero? Sì, no, non ne sono entusiasta di Alghero, la verità. Troppo baccano, troppa confusione. Ah, che è bello, dai. Cioè, è bello. Che la so, a fare un radio. Mamma mia. Capo, lei fa la cosa a Mammadoglia. Servizio nazionale. Si conferma. Cucendi. Cucendi, Gilu. È Prudu. Già là, Giulia, però non piglia, sai. Non ho mai capito perché qua dentro non prende un gran caffè. Fabio Pedivella! Ciao, ho mangiato, a domani Brodino. Dino di Fabio. Brodino di Gigio. Ah, proprio. A ci ha ballato in questa cosa. Io. Link. Mi ha dato già la coccia pure io. Ci ha pigliato un po' di più, da. Stavo ascoltando gli amici dall'altra parte. Link. Mamma mia, link nel canale ascoltate io. No, hai già ascolto io. Preferisco ascoltare qualche altro ponte, ma quello proprio, magari dai, gente maleducata. Gente maleducata, gente... io non so su altri punti, Claudio, adesso scrivimi su WhatsApp, così se sono cose più importanti da ascoltare, ascolto, e purtroppo ascolto lì perché non c'è altro. Solo quello c'è, cioè, che arriva così a voi, c'è tanto a Netterne. Ascoltare i punti nostri bisogna arrivare anche a Netterne. Sono a Monterrato, non ti arriva, capito? Monterrato è più lontano. Questo è l'inclinazione, è linkato a Sassari, quindi non c'è un problema. Arriva, arriva. Vabbè, è una catena, si chiama link nazionale proprio perché è una catena di linkaggio, capito? Regione per regione, regione per regione. Però c'è tutto un barucca di dire, in poco barracce, ruttano, fanno, perché è fuori schifo. Sì, si conferma, mi impigiamo. Abbiamo di corrodone, già va pieno. Sì, più duro con le corrodone, chi? No, io alle 9.20, 9.25 devo uscire, devo tirare la commissione, entro le 10 devo essere a casa. Capito? Quindi sto aspettando la chiamata e poi vado. Che beh, ormai ti si canto strano, io ho provato a ascoltare. Non fa per meno. Dopo li intendi papà cicu cucu piaga mi lo curo, non so cosa. Sì, tutti i numerativi continentali sono. Vabbè, no, da ce ne sono i Ducati la verità, però gli avviso pure Terragone. Tutto il mondo è paese, sono le persone Ducati, le persone che fa piacere parlare, poi ci sono i malucati e tutto il resto. A volte la gente è uno che fa di azzurro, non so cosa. Ha di chi c'ha da giudizio, fiaca di azzurro, da giudizio. Ma non ti sente Antonio, non ti sente perché c'è, anche se c'è l'antenna sopra, se non hai il codice d'accesso non ti sente lui, no. C'è un dono per entrare, capito? Non ti sente lui. Manco io se schiacci ti sento, perché c'è un dono, devo avere il dono per entrare. È un dono che hanno i radiomatori. Sì, già lo so. Sì, l'altro già c'è già, basta se sai come impostarglielo già. Se lo imposte, capito? Sì, via. Guarda, io ti dico, l'orario amatore che non ho niente, né due né uno, tutti, non me ne ha tutti un po', tutto non mi interessa niente. Solo baracchini e basta, e buco. Finiti giù. Tengo la licenza, la patente, perché mi serve, perché ho la radio, ma non ho più niente, tutto, tutto. PMR e basta, proprio UAT e Bumi, sempre messo lì in PMR, che tra l'altro è sempre trovato, c'è il 51, c'è l'alterno qui, non c'è nessuno, schiaccia, non c'è nessuno, ora c'è tutto. Prima qualche cosa la facevi? Sì, facevo tutto, collegamenti, tutto quello c'era da fare, adesso non più, prima stavo sui ponti, ma anche adesso qualche saluto lo faccio ancora, ma non c'è più attività, no? Non mi interessa. Ho tolto la 510, l'antenna grande, ho tolto tutto, attorno. C'è la mappa, quella piccolina per il PMR, la X30 mi sembra, la X50, lì sopra di Ferraglia. Non so, da lì sicuramente sparavi anche molto molto forte. Sì, quattro elementi a raffica, anche con la 5.20 per i 6 metri, non manco più 6 metri, manco il radio c'è per i 6 metri. Nulla, prendo tutto, porto tutto via. Cosa ho preso ciò? C'ho 4.30 al 140, boh, abbatto. E poi tutti i baracchini vintage, boh. Non ho più niente attività materiale. Ma quanti metri di 6 metri? Cioè, alla fine cosa cambia? Vanno più là, vanno, cosa cambia alla fine? Bambe sono, bambe, i 6 metri sono 50 mega. Capito? Noi rimattori andiamo da 0 a 70, adesso perché ci hanno assegnato anche un'altra banda. E dicono le radio che fanno con le bande, se no cosa ne vai? Quelle che avevo io erano da 0 a 30 e da 0 a 50, quindi avevi anche i 6 metri, capito? Adesso invece non c'ho manco più quella, niente, c'ho solo 0 a 30 e basta. E i giocattoli duri, 4.30 e 140 rispetto a quello che avevo prima, sono giocattoli così, ma giusto per ascoltare, non mi frega niente. Fare qualche passaggio a livello così, locale, a livello Italia, già va bene. Beh, prima l'ho pensato sì, c'erano 3 elementi, 10, 15, 20, poi da 5 elementi per i 6 metri, poi gli 80 metri. Io non ne avevo, già ne avevo 10 metri, la monobanda per i 10 metri, 3 elementi lo stesso. Non la mini, non me la fotti nulla. Mi ricordo lo stesso anche qua. È un banda laterale, è un casino, devi centrare bene, ce l'avevo l'apparecchio in banda laterale io. Pompava, la verità. Sì, entro uno aveva un baracchino in banda laterale, come ce l'ho anche io, il Vicero Drive, 520, una per la HF, che se metti a 3660, punto 00, e lì, vediamo. Se c'è qualche altra cosa, non c'è un cazzo. Quelli che fanno di exercizi, quelli che fanno di exercizi.